del transenne, e ho appoggiato l'ombrello alla transenne di modo che non mi pesasse e mi sono gomiti sopra la transenne. Stavo troppo bene, hanno cominciato a vedere quello che aveva colpito al mio e me lo voglio farà. Anzi qua, cioè sono andato a dubito, ma non rompermi il cazzo di giù, invece sempre cacchino dove l'altro me lo fa passare il vino, il cazzo passava il bambino, dove indietreggia io non potevo appoggiare l'ombrello. Insomma, il cacca tranquilli non. Poi ha cominciato a fare, si è barriata leva, non ha resistito, sono passati un po' di gruppi, una decina mi hanno sfilato davanti a me, una decina di gruppi e poi sono arrivati sino ai gruppi, quelli tipo mamutone, quelli verdure, c'erano anche quelli lì, e poi sono tutti scappati. Infatti. Un anno avevano fatto per la sfilata, avevano buttato la terra in tutto, in tutto il viale che dovevano fare per i cavalli. Avevano fatto tutta a terra, tutto a pattuglio, ogni ragazzi. Ogni trampata voi. No, hanno messo la terra al posto delle cose, sopra l'asfalto. Sì, un paio d'anni, 13 cm di terra. Per l'Italia, l'hanno fatto evitare che il cavallo scivolasse, perché un anno un cavallo scivolato, si è trovato la gamba e l'hanno ammazzato davanti a tutti, è successo un casino. Sì, sono molti di cavalli, ogni cavalcata. Ogni anno ne morivano uno o due, perché cadevano, se quando si toccavano le gambe, allora piano li sparavano. All'ippodromo un paio di volte è successo. Un cavallo tocca. E dopo lo sai che parli di cavallo. Hanno fatto di faticare, non è muscoli. Dopo un amico mio, cosa è successo? Uno di no. Tanto cavallo, ha lottato, questo cavallo matto. Allora cosa hanno fatto? Non si porta più terra sul cavallo. Lui? Allora l'hanno ammazzato, scusate. Ma non era buono a mangiare. Lui? Io l'ho visto da poco, stavo facendo un servizio a Chilivani. L'ippodromo è Chilivani da poco, sarà un po' di mesi fa. E questo fantino, il cavallo è caduto. È caduto e l'hanno abbattuto lui stesso, un'iniezione, e il gatto se n'è andato. Come le bestie, cavolo, è più che strano, cavolo, che tutti i cavalli, tutti i russi si troncano solo le gambe, non si calcificano, dai, non guarisce, non sana, chissà perché. No, non è che non sanano, è che da voi non sono più buone a currire. Se tu la sana di sana, però non sono più buone a currire. E una volta che la sanando si anda a currire, si tronca d'ora. Invece quei cavalli dovrebbero fare una cosa, curarli e darli per dire a chi fa equitazione, roba così. Che per passeggiare vanno bene. Evidentemente già non è così, non funziona così, secondo me non sanno né proprio. Perché se no l'avrebbero fatto per dargli questi manici, per far camminare, per cominciare a sedere a galoppare i bambini, sai, quando fanno le equitazioni, appunto, no? Che fanno queste cose qua, senza che saltino, insomma, che facciano delle cose pericolose. Evidentemente non è così, una volta che è diventato troppo buoni, non mi sono sana più. Pari fra. Babola, io vado a prepararmi, magari poi riprendo dalla macchina, senza magari, riprendo dalla macchina, ok? E a capo. Ciao, già dopo, ci vediamo. Via, vediamo se Gigi ha finito di passare la vasellina. Tutte le mosche di sangue che si agganciano quando si mette la vasellina in uno stilo, mosche di tutto. Io comunque una volta la mettevo la vasellina, no? Però quel fantenna, tutta la polvere, tutta la cosa diventava, guarda, uno schifo. tutta marrone, tutta sporca, bingenosa. Comunque quella pomata mettevo, non quella liquida, ma quella a tubetto. E un altro si mettevo quella a tubetto. 20 grammi pare stava, ma ti sa tanto. Ma è bello quando vedi 5-6 quelli che fanno farmacia, dico, ma cosa vuoi fare cosa? Bene. Tipo roba di assata nella farmacia, quella c'era un tubetto qua, allo strutto, quello lì la pomata, prendendo dopo la spalmata. Dove c'è la roba per la quella lì, campeggio. Unica cosa è gritare i bulloni. Come uscita di trovi i bulloni? Diciamo, provate. Prima dove stazionali, che è il tuo fortuno, dove ci sono tutte le giunture, le fascette, i bulloni, i radiali, le viti dei radiali, lì. E infatti è fatto così, l'ho messo nella cassa dei radiali e nel PL. Perché quando pioveva si bagnava il PL, non si può capire dove scendeva l'acqua, non l'ha preso, l'ho riempito tutta di vasellina, eccetera, eccetera. Anche perché io ho fatto la fesseria di comprare la l'antenna, che era tutta smontata, hai capito? E l'ho dovuta piazzare tutta io. Quando ci ho messo c'è una specie di gomme, tipo quella che vedono per stupire l'acqua. E in pratica quella si è allargata, diventava l'acqua all'interno, dove c'era il tubo di plastica, allora l'ho dovuto riempire. Prima ho fatto il lavoro con la nostra isolante, per, in modo da fare un po' di spessore, poi ci ho messo la vasellina. Da lì, vasellina dentro e vasellina fuori, boh, da quel giorno non ha altri problemi l'antenna. Siciliano. KB5. nelle altre bande. Poca gente sto sentendo, ma anche perché c'è il cattivo tempo. Scusa, non so. Lasciami vedere. Quattro zampe lì. Allora, lui, domani ci telefona, lì sappia appuntamento a... a scusare un... tagliato verso i primi di aprile, a giugno, a luglio c'aveva nuovamente il pelo lungo, canareggio, poi è cresciuto proprio velocemente, e adesso invece glielo taglio, adesso se riusciamo a guardare bene, visto che sono che sta facendo magari pure a fine, ai primi di giugno si può tagliare. Cosa è un barboncino? Un po' di domande, boh, chissà che sei fortunato, Giulia, casino davvero, già sto facendo, adesso vediamo le risposte. Ma riprendi tu. Sommolo. su antenna 1. Su antenna 1, non so se se lo fanno dando ancora. No, non è stato più dando, prima lo dava. Io ci sono, sto prendendo un colpo da qualche parte. Colpi? E come mai? Sono che ti copi un colaggio. C'è qualcuno che copi camera a fianco, boh. Non credo, non sento nessuno io di stacca. Ah, io sì, Ali. C'è uno in bando traccio questo canale, ma è basso, basso, basso. E... aspetta che controllo, perché c'è qualcuno, magari altro sei per l'Italia, che poi potrebbe esserci di vicinanza, c'è Antonio. E cosa? E Fabrizio. Adesso controllo, magari su 10 no. Sicuramente, boh, qualcuno c'è, perché sento qualcosa. Gianrico, dove sei arrivato? Sono scendo appena dal città mercato da lì. Non sono ancora fuori, dai. Chiara. E poi giù. Sei fuori dalla città, Gianni? E adesso sì, sono sulla 131, adesso fra poco imbocco il bivio per Alghero. Ho capito, comunque io gli ho detto, ho sospettato da questo mal di testa. mi piace mangiare bene, non è che a seconda di quello che mangia, se lui mangia roba grassa è bruttito. Anche io non è che devo stare a dieta, però di quei problemi diciamo non ce li ho, non è che vado, mangio come i cani, per dire. Mangio molta verdura, carne solo la domenica, e poi gli altri giorni pasta, oppure qualche uovo, comunque carne, non è tutti i giorni carne, capito? Anche perché la bagassa di grima, ti sale la glicemia, in più anche la biossia, da quando sto lavorando la gemullata, sto bevendo solo qualche lattina, qualche volta, 3 o 4 non di più, non bevo più come prima tutti i giorni, mi devo prendere la banca come un corso, sembravo uno sacchiotto. Vabbè, è tutto qua che mi fa male, tutto quello che mi ha elencato, le uova ti fanno salire il colesterolo a 1000, se ne mangi troppe. Qualcuno squillo io e vediamo di scendere, dai. Se non domani, se non dopo domani, se non dopo domani, se mercoledì, la prossima settimana, tanto ci rimano, ci rimano, che ne è voglia, che per la disponibilità andiamo. Che fa uno squillo, così io faccio tanto uguale e andiamo. No, raga, ma non problema, dai. Già, ci sentiamo comunque. Orizzontale, che è stato sotto l'alla, come si chiama. perché se uso il riposo ascolterò un po' di QRM, invece in questo caso qui con la tela orizzontale QRM non ne ascolto, ascolto tutti bene. A caso si è ripreso? Sono perfetto, sì. Ah, tu che ascolti sempre? E a distanza mi hai fatto un po' di segnale. Ciao, va bene. Ehi, già funge, avvuglia. Va bene. Come Ariello? Ah? E gli arrivi tu, Gianni? La rotonda. La rotonda quella che ci ho capito. Ho capito. Insomma. Vai avanti, già, vuoi vedere come ti ascolto? A sede Moscola. Moscola Sella. Il trasferimento da 70 centimetri diventa di 20 centimetri. Buongiorno anche a lei. No, buongiorno, buonasera a tutti. Ehi, no, perché è iniziato da 70 centimetri, ma piano piano è rimasta giù la basetta. Ehi, positivo, dai, buonasera e ben ascoltati a tutti. Ho capito bene, Domenico? Positivo, sì, Domenico da Papatango qua. Nome Luca, sempre qua da Papatango, ben sentito? Positivo, dai. Buonasera Gianluca, per la prima, ho piazzato l'apparato da poco, non so come ti arrivo lì, io sono ingresso a Porto Torres, diciamo a zona Grindi, dai. Sì, dai, allora già siamo vicini, Odomi, vai benissimo, vai 100%, tranquillo. Ok, dai, positivo, rimetto il cambio a Daniele se mi ascolta. Ma no, l'ho ascoltato, a voi, la bomboletta l'ho aspettato. Grazie per i controlli, vai Luca, riprendi. Via, va bene. No, io a Gianni adesso lo sto perdendo perché, boh, non lo so, lo sento bassino, si sta allontanando di più. Ci vuole qualche aiutino, Gianni, se ce l'hai. Pompa, Gianni, pompa. Tanto per me, ci ascoltiamo tra un po'. Via. Ok, K. Ma il Gicino ha preso il caffè, l'ha fatto il più di mezz'ora, no, che ha visto la caffettiera. Gigi deve essere andato al bar che c'è vicino a casa sua, lì sta parlando un polacca, la ragazza brasiliana polacca. Sì, positivo, stavo aspettando un attimino a rilanciarmi, dai, faccio un secondino di bianco e Domenico vi saluto un attimino, guardati per me. Gianni, adivino Zese. Andrà bene. Ah, di Gianluca. No, Gianni non lo sento più, è arrivato? No, è arrivato, abbiamo avuto dei problemi, non so che cosa. E si è fermato un attimo. Allucinante. Da un anno non ho visto fulmini, avevo trovato il passato la notte.